mi hai guardato dentro gli occhi. Hai raggiunto la mia anima. Mi hai aperto il tuo sorriso luminoso come la città. Ma se per te si è trattato solo di un momento del tuo lavoro, che e per me mi ha concesso di volare due secondi fuori dalla mia stupida realtà. Mi hai parlato dolcemente, come fanno due amanti che, congedato freddamente, come due cristalli fragili che si infrangono, ma capisco che per te si è trattato di un passaggio del tuo lavoro, che e per me mi ha concesso di volare due secondi fuori dalla mia immobile realtà. Sì, due secondi fuori. Due secondi fuori dalla mia immobile realtà. Sono sempre innamorato, sai, ma non mi sposo quasi mai. Quindi fai in fretta a prendermi se vuoi, perché poi mi perderai. Ma se per te si è trattato forse solo di un monotono lavoro, che invece a me ha concesso di volare due secondi fuori dalla mia stupida realtà. Due secondi fuori. Due secondi fuori dalla mia sempre immobile realtà. Due secondi, solo due secondi fuori della mia sempre immobile realtà. Secondi fuori dalla mia stupida realtà. due secondi, solo due secondi, sì, due secondi fuori dalla mia sempre più mobile realtà.